A Radio Città ti dico solo le ore 15. Radio Città Fujiko è lieta di presentarvi Easy Pop Estate. Conduce in studio Franco Paoletti. Regia del Bolognese Volante. Easy Pop Estate. Eccoci qua, ben trovati, ben sintonizzati sui 103 e 100 in modulazione di frequenza, insieme per un nuovo appuntamento con la musica italiana e non solo, la musica pop indipendente, la musica appunto indipendente per menti libere. Oggi siamo arrivati alla 34esima puntata, 34esima domenica, oggi è 3 settembre 2023, siamo in diretta, io vi presento anche il Bolognese Volante, che al di là del vetro sta ammirando il computer, non lo so. Cosa c'è Paoletti? Come sta? Si sente benissimo? Bene adesso? Certo, molto bene. C'era un piccolo problema qui al microfono, ma abbiamo risolto, come lei ben insegna, appunto, accendere e spegnere è il metodo migliore. E a questo punto invece siamo ufficialmente entrati in quella che è la nuova puntata, la nuova domenica di Easy Pop. Oggi abbiamo tanta canna al fuoco, tante nuove così celebrità, per modo di dire, celebrità, insomma, sono i nuovi esordienti di oggi, no, ci sono anche dei ritorni, a dire il vero, e quindi direi di aprire immediatamente la pagina musicale con il primo personaggio che andiamo ad ascoltare, vero regia? Certo. Allora, direi di presentare Giovanni Segreti Bruno, ci presenta Ti voglio bene, e di lui fra poco ne parleremo. Ascoltate il testo. Cosa vuoi? Stasera ho voglia di qualcosa di buono. Lo trovo nel frigo o sopra il divano. Boh, dimmelo tu. Cosa può succedere? Io mi pentirò domani, già lo so. Ma la passione è un vento di bora. A volte ti cerca, a volte ti ignora. E vorrei bere del vino rosso, ma poi mi perdo nel solito bicchiere d'acqua. Toccami il cuore prima di dormire, e restami accanto fino alla fine. Dimmi ti voglio bene, ti voglio bene, ti voglio bene. Abbracciami forte prima di partire, un attimo eterno in fondo può finire. Dimmi ti voglio bene, ti voglio bene, ti voglio bene. Ehi, rimani un po', stasera ho voglia di perdonare, restare in silenzio, lasciarti parlare. E vorrei bere quel vino rosso, ma poi mi perdo nel solito bicchiere d'acqua. Toccami il cuore prima di dormire, e restami accanto fino alla fine. Dimmi ti voglio bene, ti voglio bene, ti voglio bene. Abbracciami forte prima di partire, un attimo eterno. In cui non so abitare. Giovanni Segreti Bruno con Ti voglio bene a Easy Pop sulle frequenze dei 103.1 di Bologna. Secondo me ne sentiremo parlare di questo giovane, Giovanni Segreti Bruno. Lui è giovanissimo, ha già partecipato con successo, insomma, ai casting sia di Amici sia di Area Sanremo, dove si è messo in luce, e poi così nel 2018 partecipa ai corsi di formazione del CET, dove incontra il maestro Mogol, e lì gli dà giustamente dei dei consigli su come, insomma, aggiustare il tiro. E poi chi è che non ha conosciuto questo maestro Mogol? Io. C'è sempre tempo, ovviamente. Nel 2019, in apertura del concerto di Mahmood a Cosenza, lui ha aperto il suo concerto. E poi, insomma, non è nuovo a delle incisioni, perché ha già inciso dei singoli, però forse questo è il suo momento, anche perché Ti voglio bene farà parte della colonna sonora del nuovo film di Federico Moccia, Mamma, qui comando io, che uscirà nelle sale cinematografiche fra qualche giorno, fra 2 settimane. Quindi complimenti a lui, e come dico io, se sono rose fioriranno, ma un brano così le bello. Le rose ormai sono sfiorite a settembre, ci sono le lagerstremia. E che cosa sono le lagerstremia? Sono dei fiori che fioriscono a settembre, lagerstremia. Ok, quindi quelle cose lì, vedrà che fioriranno tutto fioriranno sicuramente per tutto settembre. Comunque tenete così sott'occhio questo Giovanni Segreti Bruno con questo Ti voglio bene, colonna sonora appunto di questo film, e soprattutto di questo film che è, di cui già se ne sta parlando. Del resto siamo in area, mi sembra, a Cannes, quindi vero regia? Adesso siamo in area Venezia, veramente. Ah, a Venezia, e quando arriva Cannes, che io mi confondo sempre. Non sono amico, cioè adesso aspettiamo la nostra amica Amalia Picella che ce lo dirà. Esatto, sarebbe. Non siamo ancora regime, ricordiamo che il nuovo palinsesto. Palinsesto partirà dall'11 settembre, quindi tutti pronti con le radioline accese per il nuovo palinsesto di Radio Città Fujiko. Eh sì, poi soprattutto scoprire se ci saranno meno novità, se esatto. Poi noi siamo confermati oppure no, chi lo sa, e se ci ascolterete ancora o meno, sbaracchiamo, cambiamo frequenze, chi lo sa. Cosa dice Paoletti? Non lo so, un po' di suspense, vero? Hai bevuto uno dei suoi cioccolatini che ho? No, non ancora, fa troppo caldo per i cioccolatini. Ah, meno male, però è passato direttamente alla grappa, esatto. Alla Plinkovic. Alla Plinkovez. E a questo punto direi di ascoltare Marika con la K. Marika ci presenta Iside. Davvero, l'hai lasciata sola qui col cielo che viene giù così, non sembra vero. Sì, dammi la colpa se vuoi star sereno, non pensarci più, sei serio. E tu da te a così come non detto, fammi paura, tanto non ci credo. E non ci credi neanche tu a cosa stai dicendo. Sì, ma come ridere e guarire, a fine senza le tue fine. Guardami e non dire niente, guardami e non dire niente, per poi ripartire. Io non so nemmeno ultimamente chi sono davvero, se quel riflesso che mi torna indietro mi crea o vuole sempre di più da me. Cos'è volermi nascondere? Che non lo so gestire, invece tu offrimi le alternative. No, è la corrente che mi tiene in vita, lo so che è tutta questione di prospettiva. Io vedo dalla tua e tu vedi dalla mia. Sì, ma come ridere e guarire, la fine senza le tue fine. Guardami e non dire niente, guardami e non dire niente, per poi ripartire. Paura di fallire. Io non so nemmeno ormai chi sono davvero, se per ogni tuo sguardo onesto ci vedo qualcosa dietro. Ma che non si può dire, la cura tua invisibile, mi salvi come Iside. E non sopporto come ridere e guarire, la fine senza le tue fine. Guardami e non dire niente, fermarti per poi ripartire. Le canzoni di Easy Pop sono tutte belle, ma alcune forse sono un po' più belle. A me questa piace moltissimo, Paoletti. Assolutamente. Bravo, e brava la sua redazione musicale. Certo. Fantomatica, per chi non l'ho mai vista. Però. Ma lei non deve vedere, lei deve solo ascoltare, come i nostri ascoltatori. Marika Fabian si chiama così, cantautrice italiana, nata a Padova nel 2001. Giovanissima, però è riuscita così a incidere il suo 5º singolo, si avvicina così più a al, così, al sound pop internazionale, che ha anche questi riferimenti pop anni 80-90, per cercare poi il proprio suono. E devo dire che Padova in questo momento ha il sound giusto, perché poi da lì sono partiti Padova, anche Padova si difende molto bene e ha il sound giusto, anche perché di Padova era il produttore della Michelin e non soltanto, di Jovanotti e altri, insomma ci sono dei buoni studi, Leandro di registrazioni, Barsotti, Leandro Barsotti, certo, il suo amico, sì, lo saluto, anzi nel caso ci stesse seguendo, e questo è il suo nuovo singolo, devo dire molto molto carino, si intitola Isida e magari insomma potrei quasi quasi metterlo nella compilation dance dell'anno prossimo, perché no, insomma durerà fino al prossimo ancora, perché nel frattempo magari inciderà anche a qualcosa d'altro ancora più bello, non si sa però comunque dietro c'è proprio un progetto bello tosto per Marika, mi raccomando, con la K, andatela a cercare, una bella ragazza anche lei, praticamente suona fin da quando aveva 10 anni, quindi insomma ha sempre così tenuto il passo e ha seguito sempre la musica italiana e non, fino a scrivere lei stessa. Brava Marika, ci è piaciuto il tutto. Prendere un colpo, cosa fa Paoletti? Vuole attentare la mia vita? No, assolutamente. A questo punto invece passiamo alla terza selezione musicale per quanto riguarda oggi. Abbiamo un titolo un po' particolare, inquietante. Sparami ora, a presentarcelo è Teddy. Ti diri che hai sparato ed hai centrato su di me, che mi hai fatto male, adesso non ho più nulla di te. Ti diri che ho sparato ed ho centrato su di te, che ora esci con quell'altro e vivi bene senza di me. Cambio la notte con il giorno, bevo per non toccare il fondo e ti ritrovo nei ricordi, spero ancora in un ritorno. Ormai ho perso troppo sonno per ricordare nudo in fondo, senza quel profumo addosso ho due elastico nero al polso. Che poi di noi due dimmi cos'è che ci resta, e vorrei solo cancellarti dalla testa. Mi chiedo se ti aspetterei o mi aspetteresti, e se messo da 300 mi sceglieresti. Ti direi che hai sparato ed hai centrato su di me, che mi hai fatto male, adesso non ho più nulla di te. Ti direi che ho sparato ed ho centrato su di te, che ora esci con quell'altro e vivi bene senza di me. È una saliva di una nuova bocca sopra il collo, se ti dico che la preferisco è solo orgoglio. Tu mi spari sopra una roulette un solo colpo, hai centrato il peggio, ma qualcosa andava storto. Non avrò tempo per te domani, non fanno effetto più le tue mani. Sparami ora, lo so che da tempo che lo aspettavi. Ti direi che hai sparato ed hai centrato su di me, che mi hai fatto male, adesso non ho più nulla di te. Ti direi che ho sparato ed ho centrato su di te, che ora esci con quell'altro e vivi bene senza di me. Lasciavi in bocca baci al gusto, lucky strike. Non nego che mi confondevi ad ogni smile. Adesso rido se ti vedo online, diventi subito panino del McDrive. Non avrò tempo per te domani, non fanno effetto più le tue mani. Sparami ora, lo so che da tempo che lo aspettavi. Ah, la nostra redazione ha in pratica selezionato questo singolo perché ricorda anche un po' il sound dei Pinguini Tattici Nucleari. Non so se anche lei avverte questo, così, questo assioma o questa insomma similitudine. Io avverto solo del caldo. Ah, va bene, ma perché lei non ha aperto l'aria condizionata e quindi perché insomma non so cosa sono i Pinguini Tattici Nucleari, neanche gli assiomi. Ah, come no, insomma. Va bene, allora sorvoliamo su questa cosa qui e io parla vado. Troppo erudito. E lei, va bene, lei mi così mi esalta troppo secondo me, insomma, sicuramente però i Pinguini Tattici piacevano anche a lei, quando sì, ho qualche reminiscenza, ecco. Però io i nomi tendo a scordarmeli, capito? Va bene. Ormai non mi ricordo neanche chi è lei. Beh, l'Alzheimer in calza, capisco anche questo. Comunque Teddy, abbreviazione allegorica del nome di Antonio Tedesco, in arte appunto Teddy, mi è venuto in mente Teddy Reno. Perché Teddy Reno? Non lo so, Teddy Reno. Ah, si chiamava Teddy Reno? Sì, c'era un Teddy Reno. Ho una reminiscenza. C'è ancora onore anche il nostro Teddy Abbia Reno, pazienza, la voce. Ho una reminiscenza. Per antonomasia, questo invece è Teddy, abbreviazione appunto di Antonio Tedesco. E i suoi amici appunto a scuola gli hanno attribuito questo Teddy che lui si è preso come appunto nome e nomignolo, e da qui si è portato avanti. Ha detto: sai che ti dico? Lo porto anche come, esatto, e lo tengo. Lui sta praticamente portando a compimento una scuola di perfezione per quanto riguarda appunto l'argomento canoro, quindi RC, voce, produzione, quindi sta studiando. E Sparamiore, il suo singolo d'esordio, che è, insomma, chi ben comincia a metà dell'opera. Devo dire, molto allegro e pimpante questo singolo, un po' rap, un po' trap, insomma, molto giovane, come si dice. Alla redazione è piaciuto troppo. Quindi abbiamo deciso, esatto, e quindi lei è giovine. Io sono giovane, e quindi alla volta. Cosa vuol dire? Niente, così? Andiamo avanti. Ecco, lei si contenga con questi andiamo commenti. Avanti. Io sono giovanissimo, comunque sempre più giovane di lei. E a questo punto andiamo avanti, voltiamo pagina con. Allora, inizia con questa canzone, con Ti sparerei, qualcosa del genere. Cosa era che quella di prima. Esatto, cosa questa che ho fatto. Non tornerò. Sparami ora, inizia, sì, così, l'altra. No? Sì, ho capito che l'altra, ma volevo aggiungere una cosa, che io ieri ho fatto la stessa cosa con un collega con una pistola d'acqua, però insomma una cosa innocua. Ma non si vergogna di perché io sono robe. Giovane e ho praticamente ho sconvolto l'ufficio, per dire. Ma ci credo, quindi, la ecco. Sua età, e quindi un vecchietto che spara acqua con la pistola. Ma non faccia. Passiamo alla prossima, il calibro 40, sì. Perché la mia pistola è un calibro 40, ah, si certo, ricorda? Sì, si ricorda di questo? Di si presenta. 40 lì, non tornerò. Andiamo calibro avanti. 40. Ciò che abbiamo dentro, quando sente che c'è sentimento, non temere perché oggi e domani difenderò questo. Penso che non tornerò, non tornerò mai, scegliere te. Vuoi seguirmi, amore? L'amore che sogni per me. E ora che andiamo via, ora che andiamo via, questo mondo comincia a parlare di noi, comincia a parlare di noi. È come una malattia, vedere insieme la vita che vuoi, la vita che vuoi, la vita. Quanto crespi sono i miei pensieri, questi tempi diversi da ieri creano confusione nei miei desideri. Con i cuori tutti giocolieri, di che mondo sei tu, quanta forza hai, gridalo forte che ci riuscirai. Ho questa chiave, dammi la mano, possiamo andare dove vogliamo. Penso che non tornerò, non tornerò mai, scegliere. Vuoi seguirmi, amore? L'amore che sogni per me. Penso che non tornerò. Calibro 40 che avevamo sentito con i loro anni 90, che ho messo nella compilation dance estate 23, andati in onda domenica 13 agosto. Ricordo tutti coloro che si fossero messi all'ascolto in questo istante, che sono all'ascolto delle frequenze dei 103.10 di Radio Città Fujiko Bologna, e siete all'ascolto esattamente di Easy Pop, puntata numero 34. Chi vi parla è il Bolognese Volante, e dall'altra parte il signor Franco Paoletti, ovviamente. Calibro 40 è una groove, praticamente, no, non si dice una groove, si dice che è una band, c'è un termine specifico per quanto riguarda i rapper, però il frontman è Daniele 40, ossia Calibro 40, è lui che si nasconde dietro alla mente appunto di questa sorta di gruppo collettivo, insomma, in cui appunto fa la figura lo stesso Daniele 40. Ci ha presentato questo nuovo singolo che è molto molto bello e tra l'altro molto curato a livello sonoro con il produttore artistico di Hike, si chiama così, e devo dire che lui non è nuovo ai singoli, perché lo conosciamo nel mondo musicale dell'hip hop già dal 2003, se non sbaglio, e ha prodotto diversi singoli e diversi passaggi diciamo televisivi non e poi insomma dei video eccetera, e anche grandi, come dire, grandi collaborazioni tra i tanti. Mi ricordo addirittura con Tiziana Rivale, se non sbaglio, e poi tanti tanti altri. Bene, che dire ancora, che dopo Calibro 40 noi passiamo con la prossima selezione musicale. Vuole presentarla lei? Vado io. Piatto numero 2, Sabba, Prima o Poi. Parte piano, ma parte. Nell'oscurità io ti cercherò per non perdermi. La mia libertà io difenderò per poter vivere. Quello ci sarà tra di noi, prima o poi. La semplicità che ci distingue, sai, ci farà crescere. Poter vivere Sabba, Prima o Poi. Adesso Paoletti ci diletterà con delle informazioni su di loro. Ma è molto interessante. Del resto, per chi segue Talent, sicuramente è un nome che dirà qualcosa. In arte si chiama Sabba, ma lui si chiama invece Salvatore Lampitelli, in arte appunto Sabba. È già vincitore nel 2017 del Talent The Winner Is, condotto su Canale 5 da Jerry Scotti, che dopo averlo sentito duettare insieme a Fausto Leali gli disse: sei uno dei cantanti che mi ha impressionato di più per la tua vocalità. Beh, mi ricordi Demetrio Stratos, addirittura un complimento così grande non si può che appunto dire complimenti e portare a casa. Dotato di potenza vocale formidabile, timbrica molto molto bella, a me ricorda anche alcune sfumature volevo dire, lo stesso come dire, garbo, vero? Su alcune tonalità. Mara Maionchi, anche lei rimane impressionata nel talent All Together Now. E poi anche Michel Hunziker lo ha spronato ad andare avanti, tant'è vero che lui si presenta a X Factor Romania 2019 e guarda caso arriva tra i finalisti, insomma in Romania lui è diventato popolarissimo, quindi complimenti a lui. E comunque lui continua a sfornare brani, c'è un progetto e questo è il suo quarto estratto dal suo primo album Sabba, prima o poi, mi raccomando, ricordatevi questo nome. Prenda fiato prima che lei annunci il prossimo brano, io lo vorrei dedicare a Elena, la farmacista di Budrio, a Marzia di Gorizia e a Simone di Modena che è in degenza, quindi in convalescenza, dice, sì. Gli facciamo i nostri migliori auguri di prontissima guarigione. Assolutamente. Prego Paoletta, il brano che abbiamo dedicato. Allora, la prossima selezione a presentarcela sarà Milena Mingotti, Leggimi la schiena. La schiena di una donna è un oceano di racconti. La schiena di una donna sorregge le difficoltà. Ed ogni ferita è lì che vive, ogni mia ferita è lì che vive, che vive. Ogni ferita è lì che vive, ogni mia ferita è lì che vive. La schiena di una donna ha conosciuto il dolore. Per questo motivo è d'amare, d'amare, ha vissuto tempeste, ma ha resistito anche a quelle. La schiena di una donna è vita, una discesa, una salita, una scalinata da baciare, perché è da lì che la mia vita riparte, è da lì che la mia vita riparte. Ma tu leggimi la schiena, leggimi la schiena, leggimi la schiena. Leggimi la schiena, tu fallo, fallo ancora. Tu leggimi la schiena, leggimi la schiena, leggimi la schiena. Rileggimi la schiena, tu fallo, fallo ancora. La schiena di una donna è solo per intenditori, per pochi, per chi sa apprezzare la fatica. La schiena è fiducia, amore, gioia, dolore, poesia. Immagino la tua schiena, la immagino appoggiata alla mia. Oh, oh, oh, oh. Alla mia. Milena Mingotti è lei che è venuta a noi, nel senso che tramite un redattore, la famosa redazione, giusto? Esatto, perché lavora dietro le quinte, ce l'ha proposta, ce l'ha fatta conoscere, quindi eccola qua. Certo, una voce davvero interessante e una musica molto raffinata, per palati, insomma, un po' più delicati esigenti. Ed esigenti. Milena è arrivata nei cinque finalisti ufficiali al premio Pigro del 2020, premio, lo ricordo, dedicato a Ivan Graziani e poi via a via, insomma. Difenza. Certo, e poi e ha partecipato su di noi. Ha partecipato anche al Festival del Titano di San Marino, il Gran Galà, e poi, insomma, tante altre collaborazioni. A produrla ci pensa un nome storico della musica italiana che insomma ha tenuto con tanti altri insomma le produzioni discografiche. Sto parlando di Roberto Costa, che è un turnista non solo e ha suonato praticamente con tutti, da Luca Carboni a Ron e poi Luca Barbarossa e tanti altri, veramente il meglio della musica italiana, tra cui Mina e poi Gianni Morandi, insomma non sto a ricordare tutti, però insomma dietro a un gran pigmaglione. Complimenti a lei, la voce c'è, anche il progetto, e questo è il suo singolo, eccolo qua, sui nostri piatti non poteva mancare. Un saluto a lei e ovviamente anche per lei le porte sono sempre aperte, no? Nel caso, insomma, poi giochiamo in casa, quindi direi Esatto, diciamo che essendo di Imola, insomma, giochiamo in casa, quindi le porte e le finestre sono 15:29. Oltre a spalancare le porte, spalancherei il piatto numero 2 con l'ultimo brano di questa prima parte. Lo annunci, sì, lei. Filippo Perbellini ci presenta Antistar. Mi sveglio all'alba e perdo il treno. Solo felicità, solo felicità. Sto nella bolla e scoppio io. Solo malinconia, solo malinconia. Il mondo è pubblicità, ma non puoi schippare l'arte. E diamo per scontato anche ciò che non si sa. Ma 3000 metri sopra il cielo. Caduta libera, sono un antistar. Quello che non ci sta, non ho capito che cos'è lo charme, ma solo la gravità, la musica gravità. Così infinito il tempo che sto qua a fare sul serio. Oh, oh, oh, mi prendo sul serio. No, tranqui, vai sereno. Stai sereno. Un giorno ci penserà Dio. Ma quale Dio? Il mondo è pubblicità, ma non puoi schippare l'altro. E diamo per scontato anche ciò che non si sa. Ma 3000 metri sopra il cielo. Sono un antistar, quello che non ci sta. Non ho capito che cos'è lo charme, ma solo la gravità, la musica gravità. Così infinito il tempo che sto qua a fare sul serio. Ah, ma che bello, Antistar, nuovo singolo del cantautore veronese Filippo Perbellini, che praticamente ha questo sound molto sbarazzino, molto così innovativo, simpatico, godibile, molto sveldo, come dire, molto veloce. Questo è descritto dallo stesso cantautore insieme ad Andrea Cipria, conosciuto come Stereo Cool, e Federico Strambungaro. Antistar, quindi, il suo nuovo singolo. È c'è da dire che per lui, beh, devo dire che è di Verona, nato nel 90 e ha già, insomma, un curriculum di tutto rispetto, perché se voi andrete a vedere il video e quant'altro e tutte le note critiche, vedrete che, insomma, già in tenera età si è esibito davanti a Mike Buongiorno. Quindi, Rano spumeggiante. Siamo, sì, in chiusura, prima parte, Paoletti. Allora, se il tempo tiranno, noi ci fermiamo pubblicità. Qui c'è la pubblicità, rientriamo fra pochissimo, voi restate lì. $10 was just basta che mi accendi. Non trovi la radio giusta per te? Sintonizzati sui 103.10 in FM e la troverai. Radio Città Fujiko. Cosa aspetti? La grande festa del vino, 16ª edizione. L'evento dedicato ai più grandi vini d'Italia e del mondo. 140 espositori, 400 etichette di vini da ogni regione d'Italia e da 24 paesi del mondo. 8000 bottiglie da stappare, masterclass, prelibatezze gastronomiche e wine shop. Una o due giorni di emozioni, contenuti, scambio di opinioni e nuove idee. Sabato 16 e domenica 17 settembre, dalle 10 alle 20, Villa Farsetti a Santa Maria di Sala, Venezia. www.lagrandefestadelvino.it. La fisioterapia è una cosa seria, necessita di attrezzature all'avanguardia e di professionisti con una grande passione per la vostra salute. Noi del Poliambulatorio Descovich lo sappiamo bene. Abbiamo un'esperienza di 60 anni e siamo stati i primi a Bologna ad occuparci di fisioterapia. Poliambulatorio Descovich, via del Rondone 1, traversa di via Lame, facilmente raggiungibili anche in autobus. 051 649 4501 o prenota comodamente online dal sito, saltando il centralino e a qualsiasi ora su www.descovich.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovich. Erano qui prima di noi. Preparatevi ad un incontro inaspettato. Dinosauri in carne e ossa. Un viaggio nel passato per scoprire i giganti della preistoria. Il tirannosauro e il diplodoco, ma anche il dodo, la tigre dai denti a sciabola e tanti altri ancora, tutti in dimensioni reali, per un allestimento spettacolare e scientifico. Dinosauri in carne e ossa, il parco a tema preistorico. Da oggi aperto a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Tutte le informazioni su dinosauricarneossa.it. Radio Città Fujiko è lieta di presentarvi Easy Pop Estate. Conduce in studio Franco Paoletti. Regia del Bolognese Volante. Easy Pop Estate. Easy Pop Estate alle 15 e una manciata di minuti, eccoci. 15:35, sì, oggi siamo un po' in ritardo, però insomma. La invito ad accelerare. Noi acceleriamo, del resto le note biografiche di tanti giovani che hanno licenziato adesso per la nuova stagione, ovviamente i loro pezzi sono tanti. Partiamo con Jeep City, voglio ricordare che questa è sempre Easy Pop, seconda parte, 34esima puntata, domenica 3 settembre. Ci avviciniamo a Natale, Paoletti, e ci avviciniamo a. Io sempre contento quando si avvicinano le strenne natalizie, quindi i dischi musicali e quindi i vinili. Scherzavo, Paoletti. Va bene, Jeep City, il personaggio che andiamo a presentarvi con Migliore Amico, e poi vi parlo di lui immediatamente. Forza! Mi sento solo anche se in mezzo a loro. Qua mi sento vuoto, ma nulla di nuovo. A volte mi sento solo anche se in mezzo a loro. Io già da bambino avevo gli attacchi di panico. Sento il vuoto, ma nulla di nuovo. Il mio migliore amico è cresciuto senza papà. Ma lo sai che come noi per strada come Bansky. Se vuoi restare come vuoi però non preoccuparti. Perché non siamo come voi, non penserò ai diamanti. Se vuoi restare come vuoi non penserò di amarti. E riparti ogni giorno come il sole tramonta. Se mi parli mentre sogno la musica ti ascolta. Ho canzoni che riascolto se ripenso alla volta che mi hai perso. Mai diverso tempo che ormai penso solamente frasi al domani. Forse un giorno mi vedrai dai sulle mani. Sul palco noi lo grideremo insieme sui miei brani. E le macchie che mi hai lasciato le ho lavate dal passato. Saluto mio brother, una buona giornata. Forse un giorno in cielo, forse un giorno andata. Qualche amico in centro non si è preoccupato. Qualche amico in centro. A volte mi sento solo anche se in mezzo a loro. Io già da bambino avevo gli attacchi di panico. Sento il vuoto ma nulla di nuovo. Il mio migliore amico è cresciuto senza papà. Ma lo sai che come noi per strada come Bansky. Se vuoi restare come vuoi però non preoccuparti. Perché non siamo come voi, non penserò ai diamanti. Se vuoi restare come vuoi non penserò di amarti. Vorrei stare ferma a guardare tu che mi parli. Gianmarco Fregnani, ovvero sia Jeep City, un artista classe 2000 originario da Forlì, e fin da piccolo sviluppa una grande passione per la musica. Inizia a studiare sassofono e poi via via si avvicina anche all'hip hop, insomma tutta questa cultura giovane, molto giovane. Sì, questo è un brano molto giovane. E infatti avete sentito un po' come scandagliava un po' i termini, sì, eccetera. Sì. Una storia un po' cruda, è la sua. Diverse, però storie crude. Da. Sì, effettivamente. Comunque Migliore Amico, questo è il pezzo che abbiamo ascoltato. Tra l'altro guardate anche il suo videoclip, perché è un po' tra cartoni animati e poi insomma il video molto, molto interessante. A questo punto voltiamo pagine, c'è Monteiro che ci presenta Come Tamberi, giusto? Chi se ne frega di chi ha torto e chi ha ragione. Chi se ne frega di stare a litigare. Il bianco contro il nero, il falso contro il sincero. Non vi stancate mai ma dai. Balliamo fino all'alba, facciamo ancora festa. La vita poi si calma, col vino nella testa. Ognuno i suoi percorsi, e a volte un giro gratis. In questo Luna Park, come tamberi, come tamberi. Siamo campioni, tutti campioni. Non c'è fuori né dentro, siamo figli del vento. E quando arriva la notte, saltiamo sempre di più. Come tamberi, come tamberi. Prendi il mio oro, sali sul podio. Tutto il resto sono cazzate, dai abbracciamoci. Non facciamoci la guerra e divertiamoci. Saltiamo sempre più su. Chi se ne frega se è una giornata storta. Chi se ne frega se mi scrivi un'altra volta. Prenditela pure, ti lascio l'ultima parola. Se no poi non la finiamo mai. Usciamo un po' di casa e cantiamo in un concerto. La luna è strepitosa davanti a un cielo immenso. Ognuno ha la sua storia, tra buche sulla strada e la felicità. Come tamberi, come tamberi. Siamo campioni, tutti campioni. Non c'è fuori né dentro, siamo figli del vento. E quando arriva la notte, saltiamo sempre di più. Come tamberi, come tamberi. Prendi il mio oro, sali sul podio. Tutto il resto sono cazzate, dai abbracciamoci. Non facciamoci la guerra e divertiamoci. Saltiamo sempre più su. Come tamberi. Gianmarco Tamberi è un atleta italiano diventato famosissimo, è campione olimpico ai giochi di Tokyo 2020 e soprattutto è campione del mondo ai mondiali di Budapest 2003 con un salto altissimo. E in effetti Tamberi, nato a Civitanova, Marche, il primo giugno 92, è riuscito lì dove insomma attendeva la ciliegina sulla torta, ovvero sia ai mondiali di Budapest 2023, è riuscito insomma anche con un record, tra l'altro. Siamo una trasmissione sportiva, torniamo a Monteiro, Paoletti. Esatto, Monteiro che già ben conosciamo per dei singoli che aveva già licenziato, arriva a questo singolo in tempi non sospetti, tra l'altro, perché insomma era lì che covava in realtà questo singolo, che insomma della serie Lo faccio uscire, no? L'ha fatto uscire prima, appunto, poco prima delle Olimpiadi, però insomma questo dovrebbe diventare l'inno nazionale italiano, perché insomma adesso Paoletti non esagera, cioè diciamo l'inno nazionale per queste Olimpiadi, dalle note musicali. Perché insomma l'Italia si è messa in luce almeno in questo campo, ecco, bene, una volta ogni tanto. Io mi ricordo, sono fermo un po' a Sara Simeoni. Sì, ho parlato pochissimo di Monteiro, che è un personaggio che conosciamo da tempo, insomma. Allora, e quindi lei, allora andiamo avanti. Direi di voltare pagina a questo punto. Complimenti a Monteiro, che abbiamo già sentito comunque in alcune già sue selezioni. Sentiamo il piatto 2, annunci lei. E nel piatto numero 2, Johnny and Drake, giusto? Che cosa c'è? Ah beh sì, Johnny and Jack degli Svitols. Svitols. Johnny and Jack era qui. Credo si tratti di un mercoledì. Storie malate, sai, storie passate che venute fuori col tempo. E ricordi che riappaiono da soli. Chissà poi come vengono fuori. Chissà. Chissà. Johnny Jack era qui per una ragione, per tramandarmi Rino Battisti, Lucio, Bob Marley. Crescere fuori. Ma dice Jack, siamo qui a fare casino al Prima Stella, festa dei bonghi e bancarelle coi rasta, e balleremo l'afro tutta la notte. Chi se ne sbatte, domani ci si pente. Costi quel che costi, l'ultimo cocktail, poi si riparte. Wow! Johnny Jack era qui. Ai tempi eravamo più giovani, liberi dai pensieri, ma ora che siamo qui, tutti casino come il prima stella, ma il prima stella non ci vai più, non c'è più. E balleremo l'afro tutta la notte, chi se ne sbatte, domani ci si pente, costi quel che costi, l'ultimo cocktail per tutta la notte. Molto estivo questo brano degli Svitols, che mi ricorda quello spray che si dà quando sì. ci sono le giunture di qualcosa di meccanico, insomma. Sì, sì, sì, cicola. Ho capito. Vabbè. Certo, quando cicolano le porte. Johnny and Jack, Svitols. Sì, è un estratto da praticamente l'album che uscirà, quindi fa parte di un EP momentaneamente, esce l'album, loro hanno al loro attivo, pensi un po', 3 album. Loro debutto risale al 2009, ma praticamente gli Svitols nascono nel 2001 a Crema e poi nel loro così nel loro limbo praticamente locale, piano piano fanno tanta esperienza e trovano il giusto equilibrio tra rock, punk, ska, reggae, funk e altro, fino a arrivare al sound di oggi. Nel 2019 gli Svitols partecipano a Sanremo Rock e sono anche finalisti per la regione Lombardia al Teatro Ariston ovviamente di Sanremo, e poi piano piano insomma hanno fatto uscire appunto questi 3 album. Questo è praticamente è l'anticipazione di un album che è previsto per la fine appunto dell'estate, quindi tra poco dovrebbe uscire il loro album, il 4. Quindi detto ciò, regia, detto ciò, sul piatto number one chi abbiamo? Abbiamo Esther e le sue Nuvole Rosse. Di ritorno quella sera mi hai lasciato sola sotto casa, tu con la solita scenata, parolacce sotto casa, colpa mia che son cambiato. Quelle volte che mi hai detto tu non sei una santa, quei ritorni fatti di silenzio in una macchina, quanto sei bambino quando tieni la ragione, tu che mi spogliavi solamente a parare. Non ti capirò mai, mai. Mi dispiace ma capirti io non ci riesco. Mi dicevi tu non saremmo una come cento, tra lenze e paure che ti porti stretto dentro, pronto a scappare volevi solo questo. Quando entravi nell'oblio vedevi solamente la fine, adesso sei riuscito a dirmi addio e butto dentro il fuoco io per te. Ci cammino dentro e non sento più niente, tu che invece solo ghiaccio dentro quel tuo petto. Tu dimmi cosa ne rimane di noi adesso. Esther, Nuvole Rosse, beh, non posso non fare un saluto al gruppo delle Nuvole, a una chat di amici che si chiamano appunto le Nuvole. Mi aggrego allora, un saluto a loro e buone nuvole, nuvole a tutti. Buone nuvole a tutti. Almeno insomma attenuano insomma l'irradiazione solare. Nuvole Rosse, prodotto da Coreo, ovvero sia Rosario Canale, pubblicato per l'etichetta label DMB e distribuito dalla Sony Music, e quindi insomma non è poco per questa ragazza che ha praticamente praticamente 22 anni, quindi giovanissima, arriva dalla Calabria, se non sbaglio, dalla provincia di Cosenza, quindi Calabria forse, sì, giusto? Certo, Cosenza in Calabria. Diciamo che è arrivata a questo singolo dopo aver partecipato, anzi frequentato la scuola ad alto perfezionamento Canoro, RC Voce Produzione, diretto da Cecilia, diretta da Cecilia Casario e Rosario Canale, insomma due grandi della musica italiana, insomma anche loro vivono in quel limbo, insomma, che fa da ruota, insomma, a tutto il mondo, a quello che poi vediamo di fatto, no? In TV, ai cantanti che noi vediamo. Dietro ai cantanti ci sono tanti progetti, tanti altri personaggi, addirittura insomma ex cantanti o parolieri eccetera, che aiutano questi frontman, ecco, insomma, spiegato il tutto. E poi insomma dietro il mondo della musica ci sono anche quelli che montano, smontano i palchi e così via, insomma c'è un mondo quelli non che da poco. Su e giù cursori. Esatto, c'è anche questo, il mondo delle radio, delle televisioni, e voi vedete solo una parte, vedete la faccia mondo, del personaggio, anche però il mondo dei server, quando si va a un concerto, se lei si fa caso dietro c'è della gente là come me che smanetta. Esatto, è un lavoraccio anche quello, lo so per esperienza. E a questo alza punto i livelli, abbassa i livelli. Esatto, e non va mai bene niente, no? Per me è sempre stato buona la prima e basta così, come viene viene. E a questo punto invece, dopo Esther e Nuvole Rosse, passiamo a Off Bianca featuring Core con Mercurio. Metto in vetrina le mie paranoie, uso le scuse del cazzo meteoropatia, oppure non dormo la notte, non mi vendico di chi se ne fotte, perché ho imparato anche ad andare oltre, andare oltre. Non ho voglia di mostrarmi vulnerabile, no. Come turbolenze su un aereo instabile. E anche se piango poi mi asciugo le lacrime con il mio cash, anche se cado mi rialzo benissimo senza di te. Ho una lingua di mercurio, macchio l'anima. Hai le mani ancora sporche di qualche anno fa. Non puoi ferire un diamante, lui non può sanguinare. E anche se rompi un diamante, lui continua a brillare. Devi fare una pausa, tenere il fiato è una cosa inutile. Ogni reazione ha la sua causa. È per questo che ti affanni, che combini solo danni, che ti spaventano gli anni, scandiscono i sogni infranti. Devi prendere aria, pensare a cosa ti fa stare bene, ma pensare in bene proprio non ti viene. E continui a gocciolare come un frigo rotto in una casa vuota, e continui a dondolare come un'altalena con nessuno sopra. Ho una lingua di mercurio, macchio l'anima. Di qualche anno fa. Non puoi ferire un diamante, lui non può sanguinare. E anche se rompi un diamante, lui continua a brillare. Ho una lingua di mercurio, macchio l'anima. Hai le mani ancora sporche di qualche anno fa. Non puoi ferire un diamante, lui non può sanguinare. E anche se rompi un diamante, lui continua a brillare. Siamo bombardati, siamo ossessionati. Corriamo forte come i leoni, come le Maserati. Siamo bombardati, siamo ossessionati. Corriamo forte come le Maserati. Ho una lingua di mercurio, macchio l'anima. Hai le mani ancora sporche di qualche anno fa. Mercurio, Off Bianca featuring Core, e qui insomma in questo nuovo singolo per lei è il secondo in ordine cronologico. Inizia a cantare fin da piccola e poi nel 2021 si laurea in sassofono, pensate un po', e a questo punto insomma sta concludendo gli studi, e questo è il suo nuovo singolo con un featuring, quello di Core appunto, in Mercurio. Non abbiamo ascoltato Core in sottofondo che viene fuori, va bene questo rapper, va bene, a questo punto direi di comunque voltare pagina, e abbiamo ancora regia. Piatto numero uno, mare con Ansia, Point One. Un titolo strano, ma è così. Ho passato in una valle di lacrime un perfetto weekend che mi porta a sperare di non avere una testa, vivere adesso non ho metà. La gente corre veloce, non si ferma mica a donare un frammento di pietà. È capace che cadi, ti fanno un video e poi ho capito perché non mi tocchi più. Ho passato anni ad arrestare un occhi pieni di idee. Ora ho solo 20 anni, mi trovo a sperare di non svegliarmi, perché non mi frega più nulla di cercare il benestare da chi apprezzare non sa. Siamo tutti diversi dall'alba dei tempi, ma che ci vuoi fare? Ho capito perché non mi tocchi più. Ho passato anni ad arrestare un'altra crudele che non vuole saperne di fermarsi e lasciarmi cantare. Ho un vestito di anni e fianchi larghi, tanto sono più che non devo indossare. Lo Xanax mi tiene repressa, la voce nella testa sparirà. Mi dispiace. E ora mi riprendo me stessa, sempre se smette questa malignità. Oh! Quelle benzodiazepine prese a colazione, non sai che bontà. Quel gusto di amaro prima o poi finirà. Ho capito perché non mi tocchi. Mare con Ansia point o punto 1 o point 1. Esattamente così, cantautrice e producer genovese, classe 1999, si differenzia per il sound avvolgente, dinamico, evocativo, estremamente attuale. Anzi, insomma, tra i suoi punti di contatto, lei ama molto il trip, anzi il sound of Bristol, quindi non il trap ma la musica, come dire, quella insomma d'ascolto meditativa, un po' alla Massive Attack, alla Bjork, tanto per capirci. Mare, il suo praticamente è il suo nome di battaglia, appunto arriva da Genova nel 2021, lavora al suo primo EP che insomma le dà una prima luce, una certa visibilità. Nel 2023 invece inizia a comporre il suo album e inizia appunto a licenziare il singolo Meteore, e poi subito dopo c'è questo Controluce e poi questo singolo qui appunto che si chiama Ansia punto 1. Bene. Ultimo brano di questa 34esima puntata di Easy Pop di domenica 3 settembre, Paoletti. Esattamente così, quindi ci saluteremo con Lee Ciardi, ci presenta Art Attack. Sempre più corto per fissare il muro. Sono io che combatto ancora una volta contro me stesso, mentre fumo l'ultima sulla tazza del cesso. Sempre io, il professionista indiscusso, nel celare gli entusiasmi, il cinico testa di cazzo, appresso i suoi fantasmi. Sono io che brancolo ancora nel buio, coi piedi storti, come un ninja ubriaco. Pezzi li incolli ad uno, sei tu, sei tu, che mi prendi da terra e mi inchiodi dritto al muro, sei tu. Stesso bivio, qui tra il percorso sicuro e quello più buio. Ricciardi, ecco, un personaggio da approfondire, anche perché lui è di Bologna d'adozione, però insomma Bologna, anche se è di Catania in realtà, però insomma ha fatto parte di diverse band qui a Bologna e poi insomma diciamo che il suo così il suo punto d'arrivo è l'essere cantautore alla John Mayer, oppure sì, diciamo anche a Bianco, ricorda un po' Niccolò Fabi, insomma quelle sono le sue corde, insomma le sue sonorità, e devo dire che ci stanno proprio tutte. E poi beh, che dire, che qui a Bologna si trova proprio benissimo, perché insomma è la città della musica. Che dire, che di lui scopriremo magari qualcosa di più via via nelle prossime puntate. A questo punto invece, ahimè, sono costretto a congedarmi perché Easy Pop finisce qui. Sono le ore 16, salutiamo tutti coloro che ci hanno ascoltato, speriamo di aver fatto trascorrere loro una simpatica oretta. Vi lasciamo alle trasmissioni di Radio Città Fujiko, vi diamo appuntamento domenica prossima. Per riascoltare la puntata, questa come le altre, come le interviste di Franco Paoletti, sito della radio www.radiocittafujiko.it, musica, poi nelle varie cartellette trovate tutte le trasmissioni, non solo nostre ma di tutti i redattori di Radio Città Fujiko. Certo, scartabellate, perché ci sono sempre degli articoli così interessanti, insomma interviste agli artisti e quant'altro, per rimanere informati c'è sempre la nostra redazione. Detto ciò, Franco Paoletti si congeda, vi ringrazia per l'attenzione prestata e a questo punto ci risentiamo fra 7 giorni. Bye bye da Franco Paoletti, dal Bolognese Volante, buona domenica e buona settimana a tutti e a tutte. Ciao. Avete ascoltato Easy Pop, che vi dà appuntamento a domenica prossima, alla stessa ora, e vi augura un buon proseguimento sulle frequenze di Radio Città Fujiko. Da da da.